Letture di Radio 24. La moda del selfie con il personaggio famoso non è esente dal cattivo gusto, come dimostrano le decine di persone che si fanno immortalare con Francesco Schettino, il comandante passato alla storia per aver abbandonato la nave nel naufragio che è costato la vita a 32 persone. Credo che ciascuno di noi abbia almeno un parente o un amico che tiene in casa, appesa a qualche parete o appoggiata su qualche mensola, una foto che lo ritrae accanto a un papa. Sono scatti di udienze collettive, spesso spacciate come incontri privati. Li espongono per devozione, ma anche per segnare una piccola differenza di status. Hai visto a chi ho stretto la mano io? Ma ora che il Santo Padre è diventato molto più accessibile, la foto in Vaticano ha perso valore e a quanto pare diventa molto più trendy mostrarsi immortalati accanto a un altro Francesco. Schettino. Proprio nei giorni in cui la Concordia riemerge in mare, il comandante è infatti riemerso in società, in una magnifica villa di Ischia dove l'editore Pietro Graus ha organizzato un esclusivo white party. Tra gli ospiti, tutti vestiti di bianco da capo a piedi, c'era appunto anche lui, Schettino, che peraltro si sarà sentito in divisa d'ordinanza. Non sappiamo se la festa sia stata martellata da "A far l'amore comincia tu" della Carrà e aglietata da un trenino finale. Di sicuro Schettino, a giudicare dalle foto che circolano in rete grazie al quotidiano Il Golfo, appare abbronzatissimo e in gran forma come Jep Gambardella. Affari suoi. E poi anche lui ha diritto a difendersi. Pare che stia scrivendo un libro con la sua versione dei fatti e a rivivere. Quello che stupisce un po' è la corsa scattata fra i partecipanti al White Party al cheese con l'imputato. Schettino non è solo accusato di aver provocato 32 morti in un disastro che ha fatto il giro del mondo. È anche il comandante, con Moldava in cabina, che abbandona la nave che affonda. È quello che non torna a bordo. Insomma, è il simbolo di tante cose per cui noi italiani non godiamo di grande fama. Lo è anche ingiustamente, perché per Schettino non è scattato neppure il garantismo di maniera, ma lo è. Eppure nell'epoca della visibilità anche un selfie con Schettino è un'immagine da incorniciare, o meglio da postare. Apparire non importa come, conoscere non importa chi. Una sera, davanti a un TG con gli amici, si potrà commentare una notizia sulla Concordia, ostentando un rapporto confidenziale. Non credete a queste balle. Francesco mi ha spiegato com'è andata veramente. E per chi non ci crederà, ci sarà sulla mensola la foto che ha sostituito quella con il Papa. In fondo anche il comandante Schettino è vestito di bianco. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Michele Brambilla, L'irresistibile tentazione di un cheese con il comandante, dalla stampa del 23 luglio. Letture di Radio 24. Gli scontri in atto in questi giorni tra le forze armate israeliane e i terroristi di Hamas hanno creato per l'ennesima volta l'occasione per inscenare manifestazioni antisemite. Ma il contrattacco non è un'aggressione e sarebbe sbagliato mettere sullo stesso piano i torti subiti dalla Palestina con quelli subiti da Israele, commenta Bernard Henri Lévy. Così dunque domenica scorsa a Parigi, col pretesto di difendere la Palestina, migliaia di uomini e donne se la sono presa di nuovo con gli ebrei. A questi imbecilli, oltre che mascalzoni o viceversa, ricordiamo ad ogni buon conto che mescolare ebrei e israeliani in una stessa riprovazione è il principio stesso di un antisemitismo che in Francia viene punito dalla legge. Ricordiamo che nessuna indignazione, nessuna solidarietà nei confronti di una qualsiasi causa può, non dico autorizzare, ma scusare il gesto virtualmente pogromista che è il saccheggio a Sarcelles di una farmacia ebraica o di una drogheria ebraica. A tali mascalzoni, oltre che imbecilli, o viceversa, che la settimana precedente se la prendevano con due sinagoghe e 8 giorni dopo recitano un remake penoso, e grazie al cielo ancora in modo minore, della Notte dei Cristalli. Ripetiamo che questo tipo di azioni non trova spazio né in Francia né in alcun altro paese dell'Europa contemporanea. Segnaliamo loro, en passant, che riunirsi dietro a razzi Qassam in cartapesta, riproducenti le granate lanciate alla cieca su donne, bambini, vecchi, insomma sui civili di Israele, non è un atto anodino, ma un gesto di appoggio a un'impresa terroristica. A coloro che fra questi avevano realmente a cuore le cause di Gaza e sfilavano con striscioni su cui si evocavano le decine di innocenti uccisi dall'inizio della controffensiva israeliana, non saremo così crudeli da chiedere perché non sono mai lì, mai, sullo stesso selciato parigino, per piangere, non le decine, ma le decine di migliaia di altri innocenti uccisi da circa 4 anni, nell'altro paese arabo che è la Siria. Facciamo notare che i responsabili di queste vittime, delle decine di donne, bambini, vecchi, che, se l'avanzata criminale di Hamas non viene bloccata, saranno domani centinaia, sono 2, non 1. Il pilota che, prendendo di mira una rampa di missili iraniani nascosta nel cortile di un edificio, colpisce per errore l'edificio vicino, ma anche, se non innanzitutto, i mostri di cinismo che al messaggio del pilota che annuncia di essere sul punto di sparare e invita i vicini a lasciare il quartiere per mettersi al riparo, rispondono invariabilmente che nessuno si muova, che ognuno resti al proprio posto, che 10.000 martiri sono pronti a offrire il proprio sangue alla santa causa, iscritta nella nostra carta, nella distruzione dello Stato degli ebrei. Quanto agli altri, a coloro che ritengono tali comportamenti causati da eccitazioni febbrili condivise, quanto ai mass media che continuano a evocare la aggressione israeliana o la prigione che Gaza è diventata o la spirale delle violenze e delle vendette che alimenterebbero questa guerra senza fine, obiettiamo che non c'è aggressione, ma contrattacco di Israele di fronte alla pioggia di missili che ancora una volta si abbattono sulle sue città e che nessuno stato al mondo avrebbe tollerato così a lungo. Che Gaza è in effetti una sorta di prigione, ma, avendola gli israeliani evacuata ormai da quasi 10 anni, non si capisce come potrebbero esserne i carcerieri. Cosa pensare invece di Hamas che mantiene l'enclave sotto il giogo, che tratta i propri abitanti come ostaggi e che mentre gli basterebbe una parola o comunque una mano tesa perché cessi l'incubo, preferisce andare fino in fondo alla sua follia criminale. Fra le violenze e le vendette che ci vengono presentate come simmetriche, fra l'omicidio dei 3 adolescenti ebrei rapiti e trovati morti vicino a Hebron e l'omicidio del giovane palestinese bruciato vivo 2 giorni più tardi da una ganga di barbari che disonorano gli ideali di Israele, esiste una differenza che non cambia nulla, ahimè, al lutto delle 4 famiglie, ma che, per chi ha la possibilità e quindi il dovere di mantenere la mente fredda, cambia tutto. Le autorità politiche, giudiziarie e morali di Israele sono inorridite per il secondo omicidio. L'hanno condannato senza riserve e hanno fatto in modo che i suoi presunti colpevoli fossero braccati e arrestati. Per il primo, i cui autori non sono ancora stati trovati, bisognava avere un udito assai fine per sentire non fosse che una parola nei ranghi palestinesi. Sì, una frase si è udita, quella di Khaled Meshal, capo di Hamas in esilio, che si congratulava per le mani che hanno rapito i 3 adolescenti brutalmente riqualificati per l'occasione coloni ebrei. No, fra Israele e Hamas i torti non sono distribuiti in parti uguali. Sì, Hamas è un'organizzazione islamofascista da cui è urgente liberare anche gli abitanti di Gaza. E quanto al capo dell'autorità palestinese, Mahmoud Abbas, egli si rivolge alle Nazioni Unite affinché facciano pressione su Israele. Ma non sarebbe più logico, più degno e soprattutto più efficace che si rivolgesse ai folli di Dio, che da qualche settimana sono ridiventati i suoi partner di governo, per esigere e ottenere da loro che depongano senza indugio le armi? Gli abitanti di Gaza meritano di essere qualcosa di meglio che scudi umani. I popoli della regione, tutti i suoi popoli, sono stanchi della guerra e del suo strascico di orrori. Diamo una chance alla pace. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Bernard-Henri Lévy, I torti diseguali di Israele e Hamas. Il contrattacco non è un'aggressione, dal Corriere della Sera del 22 luglio. Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the roses falling. Summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow, and I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. Una città senza auto private? In Finlandia c'è qualcuno che ci sta pensando. Piritta esce di casa e prende il tram. Dopo un paio di fermate scende e salta su una bici a noleggio. Arrivata al lavoro, prenota un'auto pubblica che a fine giornata la porterà in palestra, dove già l'aspettano tuta e scarpe da ginnastica. Infine torna a casa con il car sharing, l'auto condivisa. Il costo dell'operazione è automaticamente addebitato sul suo conto. Piritta vive nel futuro. Una città senza automobili private, dove un'applicazione web calcola in diretta il percorso da coprire solo con mezzi pubblici, treni, biciclette e servizi di condivisione, incrociando variabili come condizioni di traffico e meteo. È lo scenario delineato dalla tesi di laurea di Ingegneria dei Trasporti della 24enne Sonia Heikkilä, progetto coordinato dalla Aalto University e commissionato dal Dipartimento per la Pianificazione Urbana del Comune di Helsinki, che punta a realizzarlo entro il 2025. L'idea base è semplice. Se per i baby boomer e la generazione X l'auto di proprietà era status symbol e sinonimo di emancipazione, per i millennials, nati tra gli anni 80 e i primi 2000, la priorità non è più il possesso, ma l'esperienza condivisa, il consumo immediato, la fruizione del servizio. La libertà non deriva dal movimento fisico, ma da quello virtuale, dalla possibilità di ottenere informazioni, risolvere problemi e soddisfare esigenze attraverso la rete. Una svolta culturale e politica già in corso, che si traduce in una piattaforma con pagamenti unificati, dove saltano le tradizionali strutture di monopolio e tra i tanti Uber vince l'offerta migliore per il cittadino, reso autonomo dalle capacità tecniche individuali e da un dispositivo che integra pubblico e privato puntando sul digitale. Senza tralasciare aspetti molto concreti come gli armadietti disseminati lungo il tragitto per custodire gli oggetti di intralcio agli spostamenti. La mobilità che diventa servizio, la città, spazio di condivisione. A Helsinki esistono già sistemi di noleggio bus via app. Il progetto di Sonia dovrebbe vedere le prime sperimentazioni entro l'anno. La Finlandia va più veloce. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Serena Natale, Il sogno di una città senza auto private. Helsinki prova la sostenibilità totale. Dal Corriere della Sera del 21 luglio. Per arrivare al successo, il talento conta più dell'esercizio. Una ricerca ribalta la teoria in voga negli ultimi anni, secondo la quale una lunga pratica sarebbe sufficiente per trasformare qualunque dilettante in un uomo di successo. Secondo una ricerca pubblicata dalla rivista Psychological Science, l'esercizio non fa più del 20-25% della differenza in campi come la musica, lo sport o gli scacchi, e ancora di meno, appena il 4%, negli studi accademici. In altre parole, la pratica aiuta, questo è inequivocabile, ma non rende perfetti, perlomeno non da sola, senza essere applicata a un talento naturale. È un'affermazione che contraddice teorie date per certe da almeno 20 anni, per l'esattezza da quando, nel 1993, un team di ricercatori della Florida State University stabilì che l'esercizio ha un rilievo enorme nelle prestazioni di professionisti di elite o anche di dilettanti di grande impegno, collocando intorno all'80% il valore dell'allenamento in qualunque campo umano. Quel concetto è stato popolarizzato più di recente dall'americano Malcolm Gladwell, che in uno dei suoi libri più famosi, Storia naturale del successo, aveva addirittura coniato una formula, la regola delle 10.000 ore, vale a dire che chiunque si impegni per 10.000 ore in qualcosa riuscirà a farla con estrema abilità e risultati eccellenti. Il nuovo studio, opera di 3 psicologi, analizza i risultati di 88 ricerche sul tema esaminando un ampio raggio di discipline per giungere alla conclusione contraria. La pratica aiuta, ma non è sufficiente per raggiungere il successo. Possiamo allenarci 10.000 ore a tennis, o anche 100.000, ma non diventeremo tutti Federer. Il mondo della psicologia, riferisce il New York Times, si divide tra i due campi. Il pendolo oscilla perennemente tra pratica e talento. Siamo solo di fronte a un dibattito che non permetterà conclusioni definitive, osserva il quotidiano newyorkese. Gli esperti della materia indicano che ci sono comunque altri fattori da considerare, che non dipendono né dalla genetica, l'innato talento, né dalla quantità di ore, la pratica, per determinare il successo. Uno è l'età a cui ci si applica. Un conto è studiare il violino a 5 anni, un altro a 50, e vale anche per il basket o per le lingue, specie se uno impara queste ultime fin dalla nascita, come nel caso del bilinguismo. Un secondo fattore è il livello dell'allenamento. Tra campioni di scacchi con abilità simili, il numero di ore dedicate all'esercizio varia notevolmente, da 3.000 a 25.000. I più forti magari si sono allenati meno ore, ma hanno affrontato i tornei più impegnativi e hanno imparato a giocare sotto pressione. Un terzo fattore è il modo in cui ci si esercita. Vari studi sembrano indicare che studiare da soli dà risultati migliori, che cambiare il luogo e l'orario dell'allenamento è meglio che farlo sempre nello stesso luogo alla stessa ora, che mescolare vari esercizi in una singola sessione è più utile che concentrarsi su un solo esercizio. Infine, non vanno naturalmente dimenticati la grinta, la motivazione e pure la capacità di fantasticare, di immaginare di avere successo ad alto livello. Si potrebbe concludere che, per diventare perfetti, il talento da solo non basta, ma da sola non basta neanche la pratica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Franceschini, Il verdetto della scienza, fuori classe si nasce, dalla Repubblica del 21 luglio.